Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buon appetito. Oggi inizio così con buon appetito perché parleremo di matriciana, parleremo di pesto, parleremo di pizzoccheri e quindi credo che un po' l'acquolina salirà visto che è quasi ora di andare a pranzo. Ma ne parleremo in maniera molto particolare perché negli ultimi tempi ci sono state un po' di sollevazioni popolari da chi è tradizionalista su certi piatti, ma ci sono molti chef che cercano appunto di fare anche loro questi piatti e di dire la loro. Allora è tutto cominciato con l'aglio nella matriciana di Carlo Cracco che ha cominciato a smuovere le acque. Poi è arrivato il burro nel pesto di Davide Oldani e le acque si sono mosse ancora. Poi il latte addirittura nei pizzoccheri di Andrea Ribaldone e anche qui c'è stata una grande querela. Buongiorno a Davide Oldani che abbiamo qui con noi. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Mi sembra Davide che ci sia in atto, così come posso dire, una battaglia tra i tradizionalisti della cucina italiana, quelli che depositano anche dei disciplinari, perché quasi tutte queste paste poi hanno dei disciplinari. Addirittura sulla matriciana ha fatto polemica il sindaco di Amatrice, però poi dirò qualcosa sulla matriciana di particolare per vedere se la paternità è di Amatrice o di un paese che si chiama Grisciano. Aia, da cui è nata la gricia, e quindi il pomodoro è arrivato dopo. E allora questo lo lancio, cari radioascoltatori, è nata prima la matriciana o è nata prima la gricia? È 800 24 00 24, prego intervenire, sms 349 238 6666. Ma torniamo al burro nel pesto. Bene, tu hai dichiarato che nel pesto metti il burro e devo dire che c'è stata una sollevazione da parte dei cuochi tradizionalisti. Che difendono la tradizione del pesto. Ma più che cuochi sono stati appassionati di cucina che hanno confermato o hanno affermato questa cosa, perché alla fine il mio burro, quel poco di burro che metto nel pesto, arriva dalla mia storia. La mia storia vuol dire la mia mamma che ha 84 anni, quando fa il pesto lo fa nel mortaio e mette un filo di burro alla fine. Lei l'ha imparato dalla nonna, la nonna avrebbe avuto più di 100 anni se fosse stata qui, quindi credo che ci sia abbondante storia per poter confermare che in un pesto fatto con un po' di eleganza e delicato, senza aglio, ci si possa mettere anche del burro. La cosa che vedo molto particolare, molto strana, è questa ribellione che c'è stata. Dopotutto non abbiamo codificato in Italia una cucina come l'hanno fatto i francesi con Escoffier, c'è sempre un qualcuno che si mette assieme, crea qualcosa, fa e afferma quello che lui pensa. Quindi credo che nel mondo della cucina messa come adesso si possa pensare di fare qualche lieve miglioramento. Questo lieve miglioramento, per mio conto, è dettato dal fatto che vado per ragionamento logico quando faccio le ricette e credo che magari levando l'aglio e mettendo un filo di burro, magari levando quella parte più di stagionatura del pecorino, mettendone solo una parte, si alleggerisca, si dia un valore aggiunto a quello che è la foglia del basilico, che è ingrediente principale. E la cosa che voglio dirti, poi mi sono informato, quindi anche nei vari supermercati, nei posti dove la gente va a comprare il pesto, attualmente c'è un 70% di persone che prende il pesto senza aglio e il 30% che lo vuole con l'aglio. Prima era il contrario, quindi vuol dire che la tendenza è quella di alleggerire tutto per far sì che il pesto sappia più di basilico. Beh, guarda, sentiamo subito Daniela da Genova. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Prego. Buongiorno, no, volevo intervenire sul fatto che effettivamente sono assolutamente d'accordo con Davide Oldani. Sono una genovese di famiglia, mio padre era un genovese super e metteva il burro nel pesto con la gioia di tutti, nel senso che era uno di quelli di famiglia che lo considerava, di cui consideravano che era considerato un buon costruttore di pesto, per cui mi sembrava che adesso Oldani dicesse che non ci metteva l'aglio quando ci metteva il burro. Assolutamente sì, no, ci si poteva mettere tutte e due, esatto. Tutte e due, e non era assolutamente un gusto negativo. Quindi sono d'accordo. Bene, qui una casalinga. Grazie. Che dice di essere d'accordo, ma sentiamo un ristoratore notissimo, appunto, di tradizione liguri. Buongiorno a Sergio Circella, la Brinca di Ne, provincia di Genova, grande. Buongiorno Sergio. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Sergio, che facciamo? Mettiamo il burro o lo togliamo? Ma, questa è un'interpretazione fatta dallo chef e va bene così, però l'unica cosa è che non parliamo allora di pesto alla genovese, perché è un'aggiunta fatta in maniera appunto da chef e non sta in quella che è la ricetta effettiva tradizionale. Io penso che dopo tante fatiche nelle quali si è arrivati a ottenere una regolamentazione, per così dire, di quello che noi chiamiamo pesto alla genovese, dove ci sono degli ingredienti ben precisi, è meglio attenersi a quello. C'è stata veramente tanta fatica per arrivare a questo. La cosa che un po', quindi va bene che lo faccia pure così, però magari di non far riferimento al pesto alla genovese, può essere una sua interpretazione, va bene, però il pesto alla genovese si fa con degli ingredienti ben precisi. È vero, posso dirle una cosa, questa persona che ha chiamato prima di lei, al papà, credo non giovanissimo, che utilizzava il burro anni e anni fa, la mia mamma, la mia nonna, quindi ha detto se fosse stata qui adesso avrebbe avuto 100 anni, c'era questa usanza di mettere il burro, evidentemente perché il pesto è una salsa emulsionata a freddo e non va mantecata nella padella col fuoco sotto, ma va mantecata fuori dal fuoco per dar valore a quel verde, a quel profumo che ha il basilico. Allora, prima di fare o codificare delle ricette non fate da cuochi come l'hanno fatto in Francia con Escoffier, è bene magari consultare i cuochi e vedere di codificare un qualcosa di reale, andando nella storia, attenzione, perché se la mia nonna 90 anni, 80 anni fa faceva questo, 60 anni fa, quindi non mi sento di dire che non sia parte di una storia della cucina italiana la mia nonna, che ha... No, per carità, non voglio entrare nel dettaglio, può essere, in alcune zone sicuramente poteva essere allungato col burro o altro, certamente nella stragrande maggioranza assoluta proprio della genovesità, e parlo anche delle riviere, io non sono di Genova città, ma sono dell'entroterra del Levante, il burro non entra affatto. Bene, ora, Circella, rimanga con noi, passo la linea alla regia, dobbiamo dare le strade, cosa succede nelle strade italiane, prego regia. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Pesto, sempre pesto, fortissimamente pesto. Questo è l'inno del pesto addirittura, ma sentiamo Pier Giorgio da Genova, un altro genovese, oggi interverranno tanti, ma anche da Amatrice poi. Prego Pier Giorgio. Buongiorno, voglio intervenire per il pesto, ovviamente. Si può benissimo innovare in cucina o comunque variare, ci mancherebbe altro. Quello che contesto è lasciare il nome. Io posso fare una salsa verde mettendo basilico, va benissimo, togliendo l'aglio, mettendo il burro anziché l'olio, ma non lo chiamo più pesto. Cioè io, va benissimo, tutto si può fare in cucina, anzi, benissimo la tradizione, benissimo l'innovazione. Però il pesto tradizionalmente ha degli ingredienti, possono variare come quantità, grosso modo, ma i ingredienti sono quelli. Se io non metto l'aglio, metto il burro al posto dell'olio, ma perché l'olio al posto usavano il burro, cioè i passuri, l'olio a Genova? Perché è un elemento un alimento naturale del territorio. Il burro non esiste a Genova, non è mai esistito, non ci sono allevamenti di mucche. Prego. Posso chiederle come mai questo attaccamento, questa distruzione del burro è magari un punto a favore di un formaggio più stagionato, tipo il pecorino che ho detto, tipo un grana, che sono ottimi formaggi che però paragonati alla delicatezza di un burro e a una foglia di basilico che è un'erba fine Parliamo nel 2015 di gusto, e il gusto che noi tutti quanti abbiamo ora è diverso da quello che avevamo 20, 30, 50 anni fa, è molto più delicato. Sul fatto che cambino anche i gusti, però se mi consento, ma questo è un parere mio, è opinabilissimo, assolutamente. Per esempio a Genova, cioè in Liguria, territorio piuttosto povero, non è ricchissimo di ricette, poche, ma per me buone, non so, altri elementi semplici tipo farinata, focaccia, e si possono variare, ma la tradizione vuole questi cibi, infatti in questa maniera molto, molto semplice, che possono piacere o no, però chiamo pesto una salsa fatta con quegli ingredienti tradizionali. Tra l'altro sappiamo perfettamente qui a Genova, in Liguria, che il pesto DOP, il basilico DOP è la curia di Pra, quindi neanche il basilico preso, che so io, a pochi chilometri è quello DOP. Mi scusi Pier Giorgio, ma sì, io sono d'accordo su molte cose, però devo dire il basilico, ma uno che abita a Palermo a questo punto non potrebbe fare il pesto, perché stando a Palermo come il basilico non regge assolutamente, quindi ci sono in molte ricette ci sono sicuramente degli ingredienti che è impossibile poterli avere. Ma ora la lascio, guardi, sono pieno di telefonate e di sms, qui si stanno scatenando tutti. Sentiamo Ciro da Napoli. Buongiorno Ciro. Buongiorno Ciro. Prego Ciro. Parlo da Napoli, dove ci sono cibi caratteristici. A me sembra che siano discussioni un poco, scusate tra virgolette, di lana caprina, che ogni massaia in ogni ricetta metta un proprio quid che lo personalizzi, ogni famiglia. Del resto, se leggete la storia del raviolo, che è un cibo genovese, viene dalle colline genovesi, che cosa conclude questo re del il raviolo, il re della pasta imbottita, diciamo, che cosa? Che ogni casa, ogni famiglia ha il proprio raviolo. Ora il pesto, senza dubbio, il pesto classico è quello genovese, con l'aglio, con il basilico nano, eccetera, eccetera. Che però si tolga l'aglio e si metta del burro e si mangi del pesto, insomma, cioè, a me non pare che ci sia tanto da discutere. Bene, grazie. Per esempio io dico, faccio gli spaghetti a vongole e quando l'ho cotta a un certo punto prendo dell'acqua di cottura della pasta e lo butto dentro e ci schizzo del vino bianco. Ciro, lei ha perfettamente ragione, però il problema è che qui quando diciamo ci sono state queste uscite di Cracco, di Oldani e di Ribaldone, immediatamente c'è stata una rivolta locale, quindi vuol dire che le tradizioni sono ancora molto, molto sentite. Quando si vanno a toccare questi tasti in Italia è ancora molto importante. Se io le facessi vedere il mio quadro degli sms è una cosa incredibile, addirittura ho 5-6 sms che mi dicono che ho sbaglio a dire matriciana invece di amatriciana, ma amatriciana dal punto di vista fonetico suona male, sì, ricordiamo che è nata da matrice, d'accordo, ma possiamo chiamarlo anche alla matriciana, diciamo che sulla pronuncia la A in questo caso sparisce. Ma devo dire che sono veramente così colpito da questo burro nel pesto alla Ligure, un'eresia. Invece un'altra dice, la mia nonna genovese nell'Ottocento metteva il burro e aglio, quindi allo stesso tempo. Ma io voglio salutare Sergio Circella, la saluto. No, ma solo una cosa, prego, volevo accennare, ancor più quella del burro, che su quello si può disquisire, vale per l'aglio. Questo è un'assurdità totale per il semplice fatto che il pesto è nato come un battuto d'aglio, che era il cibo che veniva dato sulle galee genovesi dal Medioevo, per cui solo a inizio 800 il basilico è stato aggiunto per ingentilire il tutto. Da qui io una cosa che non si può transigere è l'aglio nel pesto, perché su quello non saremo mai d'accordo con nessuno. No, ma allora scusi se posso intervenire un attimo, voglio solo dire che non è che siamo noi a deciderlo, è la gente comune che lo decide, perché se i numeri attuali sono il 70 contro il 30, vuol dire che la parte della leggerezza del basilico è più importante per riconoscere un piatto tradizionale come quello del pesto. È solo quello che io dico. Poi uno può mettere un chilo di aglio, io sono pronto a scommettere con lei, fare una statistica, chiederla a 10 persone quante persone lo mangerebbero con l'aglio dentro e senza. Non ho detto che non si debba mettere, ho detto solo che attualmente le persone, praticando quotidianamente la ristorazione, quindi parlando con tante persone tutti i giorni, il mood è quello di andare verso una cucina dove preferiscono sentire il profumo del basilico e un po' meno magari di un formaggio molto stagionato di aglio. Io sono per l'aglio. Io sono per l'aglio decisamente, perché credo che dia un tocco a quel piatto, così come l'aglio lo dà in tanti altri piatti, ma nella matriciana ci va o non ci va l'aglio? Buongiorno ad Arcangelo Dandini del buongiorno ristorante Arcangelo, un'autorità a Roma in fatto di carbonara e di matriciana. Sì. Arcangelo, allora, buongiorno. Che diciamo? Diciamo ci vuole l'aglio o non ci vuole? Ma che diciamo, Davide? Qui il problema è piuttosto complesso, perché noi diciamo della matriciana conosciamo appena le origini, nel senso che si contendono geograficamente, ecco, e a matrice Roma questo piatto, ma non è che lo dico io, lo diciamo noi, diciamo comuni, qua lo dice, che ne so, Anna Cossetti della Sarda, Marco Guarnaschelli Gotti, Rio Giannattoni, Carnacina, Tabaccia, tutti, ognuno di questi aveva un'idea di matriciana, quindi immaginiamo un po', come dire la complessità di questa diatriba storica, no? Viene da matrice, ma probabilmente è stata, diciamo, con l'aggiunta del pomodoro è stata a Roma, è stato urbanizzato, un piatto tendenzialmente pastorale che derivava da Crisciano, esattamente, esattamente. La matrice che è la nostra Grecia, a cui è stato aggiunto il pomodoro. L'aggiunta del pomodoro non è una cosa così, cioè sono due sapori, c'è il dolce e l'acido, insomma c'è un quadro organolettico completamente diverso, no? Quindi voglio dire, poi per esempio, faccio un esempio, il pomodoro che ci aggiunge la Cossetti e quello che ci aggiunge per esempio gli Annattoni, è un pomodoro diverso di quello che ci aggiunge Guarnaschelli, nel senso che qui questi aggiungono pomodoro, i primi due aggiungono pomodoro fresco e crudo, senza alcun che, con gli altri aggiungono una salsa di pomodoro dove in parte va aggiunto aglio e cipolle insieme. Quindi c'è una complessità storica in questa ricetta, che insomma dire se ci va o non ci va è quasi impossibile. Io ritengo che la questione di Greco, voglio dire, credo che se insomma stiamo trattando questo, è abbastanza semplice da gestire con alcuni cuochi possono trovare una nuova identità, un piatto con un sapore, perché insomma se parliamo poi di aglio in una ricetta così significa dare un tono di amaro, no? un po' di amaro in questa, cioè si ricerca qualcosa che magari manca dal punto di vista del quadro organolettico del piatto, quindi probabilmente è giusto. Poi l'importante è che ci sia l'esecuzione del piatto, cioè l'esecuzione, se l'aglio va bene in questa ricetta, ben venga. Bene, rimanga con noi Arcangelo, perché poi devo chiedere una cosa sulla carbonara, ma sentiamo Roberto dalla provincia di Savona. Buongiorno Roberto. Buongiorno Davide, sono molto contento di poter parlare con voi, e ritornando a quello che dice il signor Oldani, probabilmente la sua nonna ha sfogliato un libro molto importante, che è La cuciniera genovese, scritta da Giobatte Giovanni Ratto, 1864, stampato a Genova, è la prima volta probabilmente che compare la ricetta del pesto su un libro a stampa, e si chiamava Battutola genovese, pesto, e i signori Ratto, padre e figlio, parlano del burro, dicono che devi prendere uno spicchio d'aglio, basilico, formaggio sardo e parmigiano, grattarli e mescolarli insieme, pinoli, pesti il tutto in mortaio con un poco burro. Mi sembra importante, perché la storia parla, la storia è questa. Infatti, un filino di burro, poi dopo nel tempo si può anche cambiare, si può abolire il burro, si può mettere la prescinsea, si possono mettere altre cose, si può togliere l'aglio, non è più un pesto però, ma questo pesto, Giobatte Giovanni Ratto, 1864, scrive così. Grazie. Bene, grazie. Bene, grazie, ma sentiamo Francesco D'Arieti, un altro radioascoltatore. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno. Io ho chiamato perché volevo anche un pochino riprendere la paternità un po' della Matriciana, che assolutamente non appartiene a Roma né ai romani, ma appartiene a questa provincia, cioè la provincia di Rieti, e in particolare ad Amatrice. Senta, Grisciano è sempre in provincia di Rieti, anche Grisciano. Assolutamente sì. Per quanto riguarda l'aglio, ricordiamo una cosa, che i pastori di questa provincia, quando si preparavano la gricia, non utilizzavano l'aglio. Perché? Perché non potevano cuocerlo, non avevano gli strumenti adatti per cuocerlo. Per questo la gricia fatta con l'aglio o la matriciana fatta con l'aglio non è matriciana, è un altro piatto, magari sarà buonissimo, ma non è la matriciana per quanto riguarda il pomodoro, e non è la gricia per quanto riguarda quella in bianco. Quindi assolutamente l'aglio proprio è da evitare. È da bandire, insomma, secondo voi è da bandire. Bene, visto che la provincia appunto contiene tutte e due queste capitali, una della gricia e una della matriciana, quindi è anche giusto che interveniate su questo. Ma devo dire che dovrei leggere tanti SMS, ma voglio chiedere ad Arcangelo Dandini una cosa sulla carbonara. Perché a proposito di latte, perché leggo una ricetta apparsa su un giornale importante, che è La Cucina Italiana, dice: a piacere potete aggiungere 2 cucchiai di latte per rendere ancora più cremoso il risultato finale. Si può fare, Dandini? Ma si può fare, torniamo sempre al solito discorso. Qui quando si parla di queste ricette, ovviamente non abbiamo avuto escoffie, quindi non abbiamo avuto codifiche, no? Perché poi questi sono tutti piatti che vengono da una base popolare, pastorale, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di intuizioni. Io, come so, la carbonara, se è vero che poi alla fine è stata introdotta o comunque è stata modificata un piatto che noi avevamo di base prima della guerra nelle nostre campagne, con il latte in polvere, no? Con l'avvento, con l'arrivo degli americani dal fronte di Cassino, probabilmente questa morbidezza ci sta anche bene, quindi bene. Io sono a dire che per me i piatti, se sono fatti bene e se hanno un quadro anche storico, basta saperle queste cose, però bene. Basta informarsi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, matriciana, pesto, insomma abbiamo sentito varie campane, ma sentiamo Rosa da Udine. Buongiorno Rosa. Buongiorno, dunque io volevo la mia piccola informazione, se può essere utile. Io dai vecchi a Genova ho imparato che l'aglio era un po' un problema di gestione, chi lo digeriva bene, chi lo digeriva male, per cui chi aveva problemi di non digerirlo molto bene consigliavano di mettere 2 o 3 noci insieme al pesto. Di burro inorridivano i vecchi, se si parlava di burro, perlomeno nelle zone dove abitavo io, il famoso pecorino e il grana, quello che si trovava. Però questa era la ricetta che io gelosamente conservo e largisco a quanti conosco, perché molte persone hanno difficoltà a digerire l'aglio. Bene. L'unico problema era ho sperimentato che mettendo 2 o 3 noci insieme si digerisce benissimo, non c'è quel ritorno di sapore dell'aglio. Concordo. È qualcosa di delicato. Ma c'è una radioascoltatrice, un SMS che dice: se leviamo aglio e aggiungiamo burro, chiamiamolo salsa al basilico e non pesto. Beh, ma nel mondo siamo riconosciuti anche col nome pizza, che ci riporta tutta l'Italia. Non tutti usano la mozzarella di bufala, non tutti usano il San Marzano, non tutti però chiamano con un nome italiano un prodotto che evidentemente arriva dall'Italia. Ecco, devo dire che questi piatti sono tra i più famosi nel mondo, perché cioè la amatriciana, così faccio contenti alcuni radioascoltatori, così mi sforzo anche con la bocca. Sappiamo, Davide, che nel mondo chiamano carpaccio anche quando tagliano sottile un pezzo di ananas, no? Sì, certo, ma storpiano tutto, perché basta vedere i menù dei ristoranti italiani o definiti tali, e sicuramente è tutto storpiato, poi dentro non si sa bene cosa ci va. Forse gli unici che lo rispettano sono i giapponesi, che quando un cuoco giapponese è stato un lungo tempo in Italia ritorna, è perfetto, filologicamente è sempre perfetto. 800 24 0024, sms 349 238 6666. Bene, la matriciana, qualcuno può intervenire sulla matriciana? Sentiamo se c'è qualche altro radioascoltatore che difende la paternità. Ma come dicevo, c'è anche, voglio chiederti però, Davide, tu hai mai messo nel tuo menù la matriciana o la carbonara? No, sinceramente non le ho mai messe in questi ultimi 11 anni, però le faccio, le mangio io a parte. Non le ho mai messe perché sono in una situazione di una cucina diversa da quella che è proprio quella tradizionale. Però per conto, la mia carbonara ideale, io ti posso dire che potrebbe essere cucinata con gli stessi ingredienti, però fatta con una tecnica leggermente più aggiornata. L'uovo che buttiamo nella pentola, più delle volte, se non hai manualità, ti crea l'uovo cotto. Quindi il suggerimento che io do, quello che io adotto, è di fare una crema inglese, che è una emulsione di tuorlo d'uovo con un goccio di latte, con la noce moscata, col pepe, insomma quelle quattro cose che servono per creare questa salsa, e poi mantecare la salsa con un fuoco molto dolce, in maniera tale che rimanga questa leggera salsa setata, e poi la pancetta brustolita appena appena saltata in padella. Bene, sì, c'è anche a Roma Roy Caceres che fa una carbonara molto particolare, completamente destrutturata. E poi non l'ho citato prima, ma Massimo Bottura recentemente ha presentato un piatto che è lo spaghetto al pesto senza pesto, quindi anche questi, diciamo che sono tutte innovazioni che uno può prendere come innovazione e quindi può prendere per tu buono. Tu sai che Ferran Adrià, io feci un periodo là da lui un po' di anni fa e facevo questa pasta alla carbonara. Tu puoi immaginare come Fran possa fare questa pasta. Sì, infatti si sentiva il sapore. Esatto, basta. Il gusto di una salsa ben cucinata, questa salsa con il profumo di pancetta, e poi lo spaghetto suo spagnolo era fatto da una gelatina vegetale e un brodo di pollo scuro. Ecco, per l'ho mangiato anch'io, ma un sms che ci dicono addirittura che la gricia nasce a Monteleone di Spoleto, è a Leonessa e non nasce a Grisciano. Bene, un altro radioascoltatore, Fabio, ha mandato questo sms. Ma sentiamo Aldo da Roma. Buongiorno Aldo. Buongiorno Paolini. A una cena, non mi ricordo in quale occasione, un cuoco che ha lavorato anche per il Quirinale mi disse che lui l'aglio lo metteva, ma proprio un minuto lo toglieva subito, lo faceva imbiondire per dare un po' più di sapore alla matriciana. Ecco, qui nascono i problemi, ma i presidenti, qual è il presidente della Repubblica che mangiava meglio? Anche qui potrebbero nascere molto, molto interrogativi, sto scherzando, ma abbiamo detto che parleremo anche di pizzoccheri. Pizzoccheri perché? Perché Andrea Ribaldone, uno chef, quindi che è anche televisivo alla prova del cuoco, e ha preparato in diretta, credo poi ce lo facciamo spiegare da lui, dei pizzoccheri aggiungendo del latte. E anche qui diciamo che la Valtellina è come posso dire, è insorta, assolutamente non si aggiunge latte. Buongiorno Andrea Ribaldone. Buongiorno a tutti, ai due Davide e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, ciao. Ciao, ciao Davide. Prego. Allora, è semplice. Beh, innanzitutto mi fa piacere tutta questa passione intorno alla cucina, è sempre bello, una passione è sempre qualcosa di positivo. E poi qual è la mia visione? Cioè, come faccio sempre del resto quando vado in televisione, ma anche al ristorante, qua in Alessandria ai Due Buoi, io cerco, cioè anzi penso che la modernità sia un dovere per un cuoco nel 2015. Quindi reinterpreto probabilmente alcuni piatti che sono anche tradizionali. E cosa ho fatto? Ho fatto una leggera fonduta con il formaggio casera invece che mettere il formaggio a pezzi, e ho spezzato il burro con una parte di olio. Questo perché? Perché penso che la casalinga a Genova piuttosto che a Catania, che i pizzoccheri magari non li ha mai assaggiati, se vedesse in televisione una ricetta con duetti di burro e duetti di formaggio avrebbe un po' paura a farli. Invece vorrei, siccome è un piatto che io amo, perché amo la Valtellina, perché ci ho anche per un po' vissuto, quindi è un paese che davvero io amo e di cui conosco la ricetta tradizionale dei pizzoccheri, mi piacerebbe che la casalinga a Catania davanti al mare provasse a fare questo piatto. Poi se il problema è il nome, chiamiamoli con un nome diverso, va bene, chiamiamoli con un nome diverso. Però, insomma, io credo che, come ripeto, sia un dovere per un cuoco nel 2015 reinterpretare. Bene, rimani con noi perché ora abbiamo Lorenza Maffescioni, che fa parte dell'Accademia del Pizzoccolo di Teglio, che sono piuttosto arrabbiati. Buongiorno Lorenza. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. E buongiorno anche a Davide Oldani e Andrea Ribaldone, che ci ha dato tanta notorietà. è vero, devo dire che questi cuochi, questi chef, hanno per così dire rifatto ritornare di gran moda questi tre piatti, ma poi ce ne saranno sicuramente anche altri in altre regioni d'Italia dove qualcuno ha fatto dei cambiamenti. Ma ci racconti allora questo latte, ma va usato, non va usato, Lorenza? Il latte certamente no. Certamente no, perché vabbè, la Accademia del Pizzoccolo di Teglio e anche i valtellinesi sono decisamente affezionati al loro piatto tipico, perché per noi rappresenta una storia, una tradizione, un nostro vissuto del passato, dell'infanzia, delle emozioni e anche dei gusti. Pertanto il nostro piatto è stato, abbiamo voluto proprio noi dell'Accademia nel 2002 cercare di tutelarlo, cercare di diffonderlo, diffondere questo nostro pizzocchero fresco fatto a mano, rigorosamente a mano, ma non solo il pizzocchero, ma tutte, diciamo così, le espressioni tipiche della nostra enogastronomia. E vedere questa rivisitazione e vedere la chiamata pizzoccheri valtellinesi, insomma, stride un po' con la nostra storia, la nostra tradizione. Pertanto è vero che è giustissimo quello che è stato detto in trasmissione fino ad ora, che gli chef nella cucina creativa debbano cercare ogni giorno di proporre sempre nuove sensazioni al palato, con anche attenzione alle tendenze del momento. Quindi tutte queste nuove ricette è giusto che ci siano, che vengano proposte, però dobbiamo anche considerare, come mi sembra sia emerso finora in trasmissione, che tante persone al contempo però, oltre a queste nuove sensazioni, richiedono alle volte di riassaporare un gusto che appunto delle emozioni che magari hanno già vissuto, e la cucina tradizionale secondo noi con il piatto, diciamo così, che rispetta la ricetta originale debba al contempo esistere. Posso fare una domanda? Sì. Quando avete codificato questa ricetta, avete pensato anche a uno spessore della pasta, una qualità di grano, e piuttosto che a una qualità di verdura da mettere dentro, oppure cosa? Solo il formaggio, il casera, come diceva il collega prima? La qualità della verdura e della farina, per quanto riguarda la farina, è sicuramente la farina specifica per i pizzoccheri, che è diversa dalla farina di grano saraceno. E com'è allora? È un pochino più fine. Questa è una precisazione. E lo spessore della pasta e la misura della pasta? Lo spessore certo, perché la sfoglia deve essere tirata con uno spessore di 2-3 mm e le fasce sono di circa 7-8 cm. Bene. Che si sovrappongono fra di loro. Superato l'esame, Lorenzo, superato l'esame. No, non era un esame, era una domanda, una curiosità mia. Ritorniamo ad Andrea. Andreas, allora lo chiamiamo pizzocchero alla Ribaldone? Esatto, chiamiamolo pure pizzocchero alla Ribaldone. Ma il Ribaldone nel pizzocchero. Il Ribaldone del pizzocchero, sì. È uscito anche un bel articolo sulla stampa, così molto, molto carino. Infatti, cioè, per me è solo un piacere, perché quando c'è passione le cose sono anche belle. Insomma. Bene, però grazie. La domanda, secondo me, Davide, più importante è, stanno dicendo, Oldani c'è una cosa giustissima, ma la farina, che farina è? Perché chiediamoci, in Valtellina, grano saraceno ce n'è ancora? E quanto? Il casera è veramente prodotto tutto in Valtellina e con latte o latte in polvere? Cioè, ieri oppure qualcuno usa il bitto? Bravissimo. Bisogna capire. Lorenza vuole intervenire? Sì, sì, certamente. Allora, il Casera è assolutissimamente prodotto tutto in Valtellina perché è un prodotto DOP. Per quanto riguarda la farina comunque viene macinata in Valtellina perché abbiamo due mulini che producono farina e la per tutta diciamo la producono per tutta Italia. Noi a Teglio stiamo facendo uno sforzo molto stiamo reintroducendo la coltivazione del grano saraceno che storicamente a Teglio era molto diffusa. Vi sono un sacco di agricoltori che stanno spendendo delle energie. Cosa dice del bitto? Dice del bitto? Allora, il bitto non viene utilizzato nella nostra ricetta tradizionale. Voi l'avete, l'avete codificata nel 2002, vero? Nel 2002. Ecco, io lavoravo con un certo Gualtiero Marchesi, maestro della grande cucina italiana, e nel 1987 facevamo, preso lo spunto dal pizzocro, questi stracci di grano saraceno con una fonduta di bitto, con un profumo di salvia addirittura. Era tutto scomposto e assemblato nel momento in cui noi finivamo il piatto. E questo per me, che è stato il mio maestro, è stato quello che mi ha dato... Ti interrompo l'input. Perché devo passare la linea alla regia. Grazie a Lorenza e grazie a Andrea. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Sentiamo Filippo da Catania, un radioascoltatore. Sì, buongiorno carissimo. Io volevo dire la mia per quanto riguarda... Mi riprendi le due telefonate che sono cadute? Prego? Prego, prego. Prego. No, volevo dire la mia su, per quanto riguarda il burro, vero, perché era l'argomento di poco fa, credo. Sì, certo. Per quanto riguarda il burro, io penso, è da circa, da quando avevo 18 anni circa che io cucino, sono un uomo che cucina, non sono un cuoco. Il burro io lo metto quasi dappertutto, nel 99% di tutti i piatti del mondo. Capito? Perché amalgama, perché dà una leggerezza e un sapore diverso. Non so se certo, mi certo, certo. A tutti i piatti, per cui altro, nel pesto è ovvio che si mette un po' di burro. Grazie. E la sua morte. Grazie. Grazie Filippo, grazie. Devo dire che ho una serie di SMS interessanti che leggo, ma tutte queste accademie, Pizzocoro, Amatriciana, che tipo di riconoscimento hanno? Io ho l'impressione che siano gruppi autoreferenziali lontanissimi da quella che è la cultura enogastronomica italiana, che è in continua evoluzione. Bene. Dice un Paolo da Bergamo. Poi c'è un altro SMS, io lo leggo, però se c'è qualcuno che vuole intervenire e poi contraddire, mi dicono che a Teglio poi i pizzoccheri che vengono mangiati nella ristorazione non sono straordinari. Questo non lo so, non l'ho mai sperimentato. Comunque sentiamo anche Stefania da Roma, un'altra radioascoltatrice. Buongiorno. Buongiorno Stefania. Buongiorno. Senta, io sono di una famiglia amatriciana, nonni, genitori, frequentazioni sia di Amatrice che di Grisciano. Volevo invitarvi a visitare Grisciana ad Amatrice, ad assaggiare l'amatriciana. L'amatriciana è un piatto di pastori cucinato negli spazi sulle montagne, dove i pastori si portavano dietro un pezzo di guanciale, un pezzo di pecorino, addirittura diciamo filologicamente anche il peperoncino è un'aggiunta al pepe, perché è veramente un piatto poverissimo. Si narra che l'arrivo delle truppe borboniche introdusse il pomodoro, però certamente né aglio né cipolla. Ecco, invece nella gricia ci va la cipolla? Nella gricia? No, non ci va. Non ci va, bene. Fatto salvo il fatto, secondo me, che ognuno fa come gli pare. Beh, certo, certo, sicuramente. Se un cuoco ama aggiungere, sperimentare, perché no? Tutti lo facciamo in cucina, no? Però se vogliamo discutere sull'originalità, sulla filologia, che è anche divertente farlo, no? E non solo conservatore, secondo me. Senta Stefania, lei oggi cucina l'amatriciana? l'ho cucinata l'altra sera. Ah, ho fatto un contest con un'amica. Lei ha cucinato la gricia, io la matriciana, e l'abbiamo mangiata in successione dalla bianca alla rossa, perché secondo me è la cosa più buona. Quando io vado a Amatrice, nel più famoso ristorante dove la pasta cucinata sono spaghetti, non mezze maniche, non bucatini. Di solito si fa così, si prende prima la gricia, poi la matriciana. Bene, bene, insomma, poi a tavola, poi quando ci si alza, insomma, devo dire che mi sa che sia un po' pesantuccia o no. Va bene, comunque grazie Stefania del suo intervento, ma io voglio tornare per un momento ai pizzoccheri, perché i pizzoccheri ultimamente c'è stato, mesi fa, un anno fa, due anni fa, non ricordo esattamente, ma noi ce ne siamo occupati, una diatriba che andava sul nome, sul termine pizzocchero. Era in discussione tra un'area della Valtellina e un'altra area italiana che usava la parola pizzoccheri. Poi diciamo che il territorio della Valtellina è insorto e ha mosso quelle che sono le leve procedurali di intervento per difendere una denominazione di origine. E vorrei sapere da Fabio Moro del pastificio di Chiavenna com'è finita questa avventura. Buongiorno a tutti. Buongiorno. I radioascoltatori. Buongiorno, Fabio. Volevo dirvi che è finita bene, nel senso che i produttori della Valtellina hanno avuto ragione, il Tribunale Civile di Milano ci ha dato ragione, quindi il nostro prodotto oggi sta per ottenere la IGP, la identificazione geografica protetta, ed insieme a dei maccheroncini di Campofilone e alle paste di Gragnano stiamo per avere appunto questo importantissimo riconoscimento europeo. Ecco Moro, senta, per l'IGP avete presentato un disciplinare, questo disciplinare è ben preciso, quindi sull'uso ad esempio del formaggio c'è Casera, c'è Bitto oppure c'è Casera decisamente, e voi avete accolto il disciplinare dell'Accademia, questa Accademia di Teglio? Assolutamente sì, il disciplinare parla nel nostro caso specifico di pasta, cioè di come viene realizzata la pasta, quali sono gli ingredienti, quindi gli sfarinati di frumento, l'acqua ovviamente ed il grano saraceno integrale. Poi per quanto riguarda la ricetta, quindi qui ci colleghiamo con gli amici dell'Accademia del Pizzoccaro, è ovvio che noi sposiamo quella che è la ricetta nostra, la ricetta tradizionale, lasciando ovviamente libero campo a tutte le interpretazioni che poi dopo vengono fatte. Questo è ovvio, cioè i chef aiutano anche noi produttori della pasta a venderla in tutta Italia. Ecco, io credo che l'IGP prevede anche che si possono utilizzare prodotti provenienti da altre regioni, quindi che non siano strettamente territoriali, ma che il disciplinare, cioè diciamo come viene preparato un piatto, sia locale. Le chiedo, si dice sempre che il grano saraceno se ne è sempre meno in Valtellina, è così? Ma in verità c'è una specie di ripopolamento del grano saraceno, nel senso che l'Accademia e anche la Coldiretti stanno promuovendo l'utilizzazione dei campi, e sempre di più ce ne sono. È ovvio che questi 10-15 ettari che ci sono, sono veramente molto pochi. In ogni caso il grano saraceno è protetto da un importante riconoscimento anche nazionale, quindi è protetto, insomma. Sì, assolutamente. Sì. Bene, la ringrazio Moro, grazie. Sentiamo Mario da Roma, l'ultimo radioascoltatore, poi ci avvicineremo al finale. Grazie, Mario, prego. Eccomi, buongiorno a tutti, io sono di Roma, ho lavorato circa 30 anni fa a Milano per un certo periodo di tempo, e al di là dell'IGP, del DOP e via, io mangiai in un ristorante che adesso mi dicono che è diventato molto famoso, io non dirò il nome e via, allora erano moglie e marito della Valtellina, e sono andato lì a mangiare i pizzoccheri, io non sapevo neanche che cosa erano, e dopo 32 anni io non l'ho più rincontrati i pizzoccheri e via, e mi è rimasta questa cosa nel cuore di un piatto meraviglioso, insomma, ecco. La signora me l'ha levati perché era il terzo piatto che mi mangiavo, e mi disse, guarda, ero una ragazzina, mi disse, Fiol, insomma, te li levo perché sennò tu a casa non ce l'onni, insomma, ecco, questo era così, volevo portare... Senta Mario, un consiglio. Una volta a Milano raggiunga la Valtellina, magari cioè raggiunga Teglio o paesi vicini, così potrà rimangiare tre piatti o quattro anche di pizzoccheri. Ma vedo che veramente è incredibile gli interventi che ci sono dei nostri radioascoltatori per difendere il localismo. C'è uno che scrive: Amatrice era provincia di L'Aquila, il piatto è sabino abruzzese laziale. Ma quando era provincia di L'Aquila? Allora è provincia di Rieti, quindi arriviamo a questi viaggi. È evidente che diciamo che questa battaglia tra tradizione e innovazione è una cosa che si ripercuote in cucina ogni giorno, ma non possiamo fermare quello che è l'evoluzione, non possiamo fermare l'evoluzione, perché la cucina è un qualcosa che si evolve continuamente, la tradizione è un qualcosa che si evolve, non rimane mai ferma, perché ci sono alcune materie prime, alcuni ingredienti che non sono più come prima, non hanno più il sapore di prima, quindi molte volte è inutile andarli a cercare. Certo che a casa, la cucina casalinga sicuramente è diversa dalla cucina del ristorante. Se vogliamo, lo chef deve dare qualcosa di suo, ecco, magari che poi viene anche contestato, è giusto anche questo che si contesti quando un sapore non è quello a cui uno è abituato. È evidente che la tradizione... Abbiamo perso un po' il treno sul codificare la nostra base della cucina anni e anni fa. Questo treno nuovo che ci si presenta potrebbe essere quello di codificare realmente, come sta succedendo, i prodotti della cucina italiana. Non oserei più a chiamare la cucina regionale italiana, ma la cucina non regionale italiana, cioè dove la fa da padrone solo il prodotto. Ma vedi, questo è il tema del mio prossimo libro, che fra un mese uscirà. Bene, io sono anni che sento sempre parlare di codificazione, però credo che l'Italia è un po' l'Italia dei mille campanili, per cui è un po' difficile. Comunque ti auguro di fare un ottimo lavoro. Ringrazio Anita Panizza in redazione, Riccardo Buccero e Ferronato in regia. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona domenica.